9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, cari ascoltatori, martedì 15 dicembre, nel tentativo di parlare, dopo due giorni di, in qualche misura, indigestione di questa cosa di Berlusconi, di parlare di una cosa che invece dovrebbe riguardare noi tutti e voi tutti. Perdonateci se apriamo una finestra sui problemi del paese reale, per così dire. E ci occupiamo di consumi sotto Natale. Ci occupiamo di consumi perché innanzitutto bisogna occuparci di più dei consumi per crescere di più, perché la componente fondamentale poi del nostro paese è molto trascurata, è la domanda interna, anche se sono le esportazioni quelle che ci fanno crescere di più. Ma se c'è forse anche un difetto del nostro dibattito nazionale di occuparci molto giustamente dell'export del manifatturiero, che sono il traino che aggiunge più PIL potenziale alla nostra crescita, e di non occuparci abbastanza poi del 70% del valore aggiunto dell'economia nazionale, che è dato dai servizi e terziario, e di non occuparci abbastanza del problema rappresentato dal potere d'acquisto delle famiglie italiane. Come è noto, il contributo del reddito da lavoro dipendente e la voce del reddito nazionale col segno a variazione positiva più insignificante da molti anni a questa parte, e poiché nel nostro paese il reddito del lavoro dipendente è la voce del reddito delle famiglie più rilevante in proporzione agli altri paesi, visto che gli italiani partecipano meno al mercato finanziario, e del resto negli ultimi due anni sul mercato finanziario avrebbero preso botte, per così dire, e oltretutto incorporano meno valore di reddito da proprietà immobiliare di quanto avvenga invece in paesi in cui la compravendita immobiliare per unità media di appartamenti detenuti in famiglia è molto più elevata nel nostro paese. Per tutta questa serie di ragioni, l'andamento del reddito da lavoro dipendente, soprattutto per le qualifiche basse e medie nel nostro lavoro, nel nostro paese, avendo avuto un segno molto contenuto, ha portato ad una dinamica dei consumi che in questi anni sono stati molto molto flat, tendenzialmente piatti, e anzi poi col segno negativo in questa crisi. Parto da questi risultati, da questi andamenti, per fare una fotografia un pochino di come gli italiani si approssimano a questo Natale. Io vi ricordo che la spesa delle famiglie residenti nel nostro paese nel 2008 ha avuto un segno negativo, quindi meno 0,9% sul 2007. Nel 2009 andiamo a chiudere con un meno 1,7, meno 1,8% più o meno, il che significa che siamo andati su consumi pro capite che, se dovessimo pensare al punto più alto, eravamo quasi a 13.000 euro come media di tutti gli italiani nel 2007. Beh, insomma, in questo 2009 siamo scesi a 12.200, ecco, euro rispetto ai 13.000, per intenderci. Vediamo un pochino i dati dell'ultimo trimestre, i dati del terzo trimestre 2009, che sono gli ultimi disaggregati che abbiamo per i consumi degli italiani. Nelle diverse voci abbiamo nel terzo trimestre 2009 ad andare piatti, zero spesa per alberghi, pasti e consumazioni fuori casa dopo mesi di segni negativi. A riprendere, a crescere invece le spese per beni e servizi per la mobilità, più 7,4%, a crescere moderatamente beni e servizi per le comunicazioni, più 1,5%, a crescere dopo un paio di trimestri di segno negativo di nuovo invece i beni e servizi per la cura della persona, ma solo con un modestissimo più 0,2%, mentre invece restano anche nel terzo trimestre 2009 con un segno meno fortemente significativo le spese in abbigliamento e calzature, meno 3,5% dopo molti trimestri di segno meno, le spese beni e servizi per la casa, meno 1,8% anche in questo caso dopo molti trimestri di segno meno, le spese per alimentare, bevande e tabacchi, meno 2,7% anche qui dopo molti trimestri col segno meno. Ottobre è stato comunque il quinto mese con una variazione percentuale dei consumi tendenzialmente positiva, e quindi ci sono parecchi segnali da diversi comparti in cui che cosa avviene? C'è un rilancio, boom? No, semplicemente una riduzione delle difficoltà, e questo soprattutto per alimentare e l'abbigliamento, che erano reduci da mesi un pochino difficili. Allora, di fronte a tutto questo, quanto verrà nelle tasche degli italiani con la tredicesima. Ecco, questo è il conto da fare. Diciamo che ci saranno, con la tredicesima si conta che ci siano una trentina almeno di miliardi di euro che entrano come componente appunto reddito lavoro dipendente nelle tasche degli italiani. Di questi vanno in consumi più o meno 18 miliardi, in spese però in negozi, quindi una volta che si detrae la componente di consumi aggiuntivi per la famiglia, per l'utenza eccetera eccetera, siamo sulla dozzina di miliardi. Questi sono conti più o meno della serva, molto approssimativi ovviamente e preventivi, e di questa dozzina di miliardi 6 miliardi più o meno è il conto, tenuto conto di una proiezione di tutti questi segni meno che abbiamo fatto fino a questo momento, 6 miliardi in regali. Quindi noi stiamo parlando di una dozzina di miliardi di spese in consumi aggiuntivi nel sistema commerciale e di 6 miliardi di questi 12 per regali. E la domanda è, queste spese che cosa determineranno nella congiuntura italiana, e soprattutto si può immaginare che per incrementare questi consumi, che come avete visto rimangono compressi per ragioni di basso reddito disponibile, non sarebbe il caso di pensare a una liberalizzazione? Oppure ha ragione chi dice che la liberalizzazione promette troppo ma poi mantiene poco, perché poi obbliga anche a comprimere ulteriormente i costi e i margini nella struttura di distribuzione, che è già molto in tensione, magari spingendo poi altre centinaia se non migliaia di esercizi alla prossimità del baratro in cui non si tiene più con i conti d'impresa? Ecco, queste le domande e i numeri per fare due conti in tasca agli italiani e spenderli e spingerli a spenderli un pochino più, con più fiducia, anche se non significa più responsabilità. Vi presento intanto i nostri ospiti per la prima parte della trasmissione. Abbiamo con noi Renato Borghi, il vicepresidente di Confcommercio e presidente di Federmoda. Buongiorno Borghi. Buongiorno dottor Giannino. E Fabio Pammolli, il direttore del CERM. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno. Allora Borghi, innanzitutto spero di non aver detto troppe improprietà, ma insomma il conto di le aspettative di Confcommercio verso questi acquisti natalizi rispetto all'andamento dei consumi e all'andamento del settore come sono? Ma guardi, noi abbiamo previsto che per diciamo i consumi di Natale potrebbe esserci, noi così prevediamo, un lieve incremento rispetto allo scorso anno, che certamente non era stato un Natale effervescente, e stimiamo questa crescita attorno allo 0,4%, 0,5%. Questa è la spesa destinata ai consumi in generale. Per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, della moda in genere, quindi abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, lei ha fatto una fotografia corrispondente al vero. È una crisi che addirittura è iniziata prima della crisi che tutti noi conosciamo, della valanga finanziaria, con tutto quello che ha portato. Era un settore già in difficoltà, con una forte con un forte livello di importazione di prodotti dall'Asia, quindi significativamente dalla Cina e dall'India, e ecco, come settore certamente noi non ci aspettiamo chissà quali risultati. Forse naturalmente auspichiamo che qualche risorsa si possa liberare, essendo andata anche la stagione autunno-inverno piuttosto male dal punto di vista dei consumi. Da questo punto di vista si poteva fare di più specificamente, al di là, voglio dire, di risorse e di liquidità nelle tasche degli italiani, magari se si detassava la tredicesima, il governo ha detto di no, ma si poteva fare di più a livello di sistema di distribuzione per indurre l'andamento dei prezzi, forse essere più favorevole per gli italiani? Ma guardi, io credo che intanto, vabbè, come lei sa, la richiesta della tassazione della tredicesima è stata la richiesta più insistita e più ripetuta che ha fatto il presidente Sangalli, convinto, come siamo convinti tutti, che bisogna così rifocillare il reddito disponibile netto delle famiglie, cioè quello che si può spendere. Per quanto riguarda le politiche commerciali, guardi, si può ragionare di tutto, di eventuali ulteriori liberalizzazioni, ma quello che è sicuro e quello che è vero è che nella maggioranza del paese, ad eccezione di Lombardia e Lazio, le offerte scontate nell'abbigliamento tra saldi, promozioni, vendite di liquidazione e quant'altro interessano almeno 10-11 mesi su 12. Ecco, che poi questo sistema di promozioni, di vendite scontate possano essere gestite meglio, con maggior flessibilità e con maggior frequenza, invece di insistere solo sui saldi, questo probabilmente, secondo me, merita di essere approfondito. Oh, io ricordo chi ci ascolta e che facesse un po' di confusione, che bisogna distinguere naturalmente tra la disciplina che riguarda i saldi e le vendite di fine stagione rispetto a quella delle vendite promozionali. Sono le regioni titolari del calendario nell'ambito di leggi nazionali per disciplinare i saldi, in particolare quelli estivi. Diciamo che i calendari regionali cambiano, ma insomma la data standard è quella del primo sabato di gennaio e il primo sabato di luglio per i saldi invernali e i saldi estivi, durano 6 settimane più o meno, eccetera. La comunicazione non è necessaria. Diverse sono le vendite promozionali, che si possono fare in genere tutto l'anno, tranne i periodi che sono coincidenti con liquidazioni, saldi o nei 30 giorni precedenti e così via. Hanno una durata massima che viene scelta dall'esercente e hanno diversi regimi di comunicazione più o meno obbligatoria. Di solito sono, le comunicazioni sono necessarie per il settore che non è alimentare, e quindi poi, e qui poi si entra anche nella disciplina dei comuni. Pamolli, nell'andamento e nel contributo, diciamo così, del commercio e della spesa degli italiani, in realtà dal punto di vista dell'organizzazione del mercato, l'osservazione dei dati che fate voi al CERMI che cosa ci dice? Ci dice che da un punto di vista di andamento degli ultimi anni, anche durante il periodo della crisi, abbiamo visto un proseguire della tendenza al rialzo dei prezzi al dettaglio, con una divaricazione dell'andamento nel periodo più recente pronunciata rispetto all'andamento dei prezzi alla produzione, e casomai con un lieve rallentamento dell'inflazione nell'ultimo periodo in associazione al picco della crisi. Ma la situazione italiana ha rappresentato un'anomalia nel panorama europeo proprio per una continua e protratta divaricazione tra andamento dei prezzi al consumo e andamento dei prezzi alla produzione. A segnalare, a nostro avviso, l'esistenza di elementi di barriera alla concorrenza di prezzo e di barriera alla concorrenza in generale, associati e riconducibili alla struttura della distribuzione. Quindi mentre c'era tutto il mondo avanzato che si preoccupava per la deflazione, segno meno eccetera, da noi il segno era persistente di un eccesso, per così dire, di prezzo dovuto a inefficienze, che significa che poi quando dovesse partire, come tutti o molti temono, l'inflazione, noi avremmo comunque quel gradino in più che ci aveva sempre caratterizzato così? Lo abbiamo avuto per tutto il periodo pre-crisi e lo abbiamo avuto durante la crisi. Lascerei perdere la questione deflazione, che a mio avviso è servita soprattutto a Ben Bernanke e a qualche economista nostrano per farsi bello, ma a parte questo dettaglio, in realtà l'Italia non si è trovata in una situazione di minacciata deflazione, si è trovata in una situazione di strisciante stagflazione. Addirittura per un periodo siamo stati in stagflazione, cioè siamo stati in andamento al rialzo dei prezzi al consumo con un PIL che era sostanzialmente piatto o addirittura iniziava a decrescere. Questa è l'anomalia italiana. Noi la riconduciamo a un difetto, diciamo, da un lato di rinnovamento strutturale della rete distributiva e da un lato a barriere, vincoli, lacci e lacciuoli che caratterizzano il ruolo degli enti locali rispetto allo Stato centrale e caratterizzano un'implementazione che è distorsiva dei principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione. Poi possiamo ritornare su questi aspetti, ma sicuramente enfatizziamo un elemento di arcaicità dell'architettura regolamentare e anche di imperfezioni, tra virgolette, di mercato che sono ricondotte al ruolo della regolazione. Oh, Borghi, naturalmente non si può essere insensibili alla tipologia, alla tradizione, al tipo di occupazione che sta nel sistema distributivo di prossimità, che è quello che soffre di più poi in questa crisi rispetto agli andamenti invece della grande distribuzione, che può contare su margini di ottimizzazione dei magazzini, della logistica, eccetera, eccetera. Però la domanda diventa: classicamente si dice: ah, facciamo la liberalizzazione e le inefficienze lasciano spazio invece alle diminuzioni di costo per il consumatore. Però in realtà qual è la via italiana per tentare di difendere l'una e l'altra e per non finire solo nella grande distribuzione, di cui io difendo i margini ovviamente, ma che non può contemporaneamente soppiantare la caratteristica della tipologia del commercio italiano? Qual è la via di mezzo rispetto a cui il legislatore centrale, periferico, con le autorità locali e quello nazionale rimane insensibile? Le rispondo, Genino, però se posso volevo anche rispetto a quello che ha detto il professore. Cioè, innanzitutto il settore dell'abbigliamento, credo che qualsiasi dato lo confermi, è il settore nel quale l'inflazione negli ultimi anni si è manifestata meno, cioè è stata sempre più bassa, questo in virtù proprio delle promozioni, dei saldi e quant'altro. E poi questa considerazione sul fatto che i prezzi alla produzione siano cresciuti meno che quelli alla distribuzione, naturalmente non tiene conto di un fatto ormai conclamato, ormai diffuso a 360 gradi, che è quello della delocalizzazione delle produzioni. Allora la domanda è: chi ha tenuto, chi ha conservato questi margini derivanti dalla produzione, per esempio in Asia, come dicevo prima, la Cina? Dove sono finiti questi margini? E se guardiamo i listini ex fabbrica, da quando la delocalizzazione è diventato un fenomeno così vasto e così allargato, io in qualsiasi fornitore prendiamo in considerazione non abbiamo mai visto diminuire i prezzi dei prodotti offerti alla distribuzione. Quindi c'è da considerare anche questo come fenomeno, io dico anche sociale, se vogliamo. I margini sono rimasti, lei dice, prezzi. I delocalizzatori si prendono tutto il margine da minor costo e se lo tengono loro, esatto. Non lo portano in basso alla catena. Esatto, questo, e quindi non lo portano in basso alla catena, quindi né a noi ma neanche al consumatore. Ai consumatori, che è per questo che poi si rivolgono decisamente a un mercato di prodotto a prezzo più basso e secondo me anche più scadente. Per quello che diceva lei, ecco, qui si tratta da parte delle regioni di governare il fenomeno della distribuzione commerciale con l'equilibrio necessario a garantire che laddove ci sia, come c'è nel nostro paese, specializzazione, laddove ci sia distribuzione di prodotti di qualità made in Italy anche presso la distribuzione tradizionale, quindi piccoli negozi, si possa garantire una concorrenza equilibrata. Per esempio la liberalizzazione di cui tanti parlano e che molti chiedono sugli orari, sulle domeniche, evidentemente penalizza una piccola azienda che ha conduzione familiare o magari ha uno o due collaboratori. Quindi si tratta di cercare un equilibrio, io credo che in Lombardia per esempio sia stato trovato, tra diciamo le esigenze della grande distribuzione con le proprie economie di scala e anche però la compatibilità con la vita di piccoli imprenditori che comunque riescono ancora a stare sul mercato, ecco, con una vita che sia, come dire, eticamente compatibile. A questo proposito io dico che non ho assolutamente condiviso la scelta dei saldi al 2 di gennaio, che non consentono né ai collaboratori dipendenti né ai titolari di piccoli negozi nemmeno un giorno di riposo dopo, diciamo, il periodo delle festività natalizie. Dopo una sbornia di 40 giorni da parte dei consumatori di negozi aperti, non mi sembrava il caso di partire il 2, il che significa non fare neanche un giorno di riposo, perché l'1 andrà dedicato ad allestire i negozi e le vetrine, certo. Grazie a Borghi che ci deve lasciare dopo questa prima metà della trasmissione. Eccoci tornati in studio, stiamo facendo una riflessione su come potrebbero andare i consumi sotto Natale in relazione ai vincoli che gravano sul sistema della distribuzione e ponendoci la domanda se, tentando anche di rispettare la particolarità dell'impresa distributiva italiana, non sia il caso di aprire qualche maglia in questa giungla di disciplina tra regionale, comunale, eccetera, eccetera, che è molto pervasiva. E non siamo proprio un paese nel segno della grande libertà d'impresa per quello che riguarda i tipi di vendita, con la distinzione tra promozionali, fine stagione, liquidazione, sottocosto e discipline amministrative per ciascuna di esse. Eravamo arrivati a un punto di un elemento di tensione tra grande distribuzione e distribuzione locale. Su questo due telefonate per cominciare e poi vediamo un esperimento di cui trarremo qualche insegnamento di liberalizzazione. Cominciamo con una chiamata. Massimo da Roma, prego Massimo. Buongiorno a tutti, io vado al sodo e qui si parla di liberalizzazioni e cose varie. Io voglio sottolineare il caso di Roma, dove sono stati stabilita la data dei saldi al 2 di gennaio. Dal 15 novembre io ho due punti vendita abbastanza grandi e uno piccolo. Noi dal 15 di novembre si è fermato tutto, abbigliamento, ho calzature io. Il 2 di gennaio faccio notare che a ridosso cioè comincia il saldo invernale, sì. Quando il 21 dicembre entra ufficialmente l'inverno, quando quest'anno sono solo una settimana che fa freddo qui al centro. Quindi queste regole, queste cose, i saldi hanno portato alla rovina della piccola distribuzione. Quando c'era una maggioranza di piccola distribuzione, vi faccio ricordare che c'era ricchezza diffusa. Quando adesso abbiamo dei grandi mobilifici della grande distribuzione alimentare, si è ridotta l'occupazione e la ricchezza non c'è più. Quando si fa l'osservazione che i prezzi sono diminuiti nella grande distribuzione, io posso notare che quando c'erano forse i prezzi che erano forse più alti della piccola distribuzione, tutti avevano i soldi per comprare. Adesso c'è il prezzo basso e nessuno c'ha i soldi per comprare. Arrivederci e grazie. Grazie Massimo, io sapevo e mettevo in conto che è giusto dare spazio alle ragioni della tipologia classica dell'impresa di commerciale di prossimità italiana rispetto alla grande distribuzione, che ha margini diversi, quindi me lo aspetto ed è giusto anche tentare di capire come tenere insieme entrambe le cose. Il fatto che poi ci siano meno soldi in giro in realtà dipende dal fatto che, ripeto, c'è una componente di reddito disponibile che è molto compressa da anni nel nostro paese, da che siamo entrati nell'euro in buona sostanza, e così non voglio dare la colpa all'euro, ma insomma ha contribuito, ecco. Fabio da Firenze, prego Fabio. Sì, buongiorno. Allora, la mia è la visione del consumatore 67enne che non vede ragione, cioè io abito a Firenze, città particolare per negozi, per distribuzione eccetera, e la mia impressione è che i prezzi siano almeno due volte quelli logici, quelli reali, per fare poi la liquidazione a prezzi normali, perché nessuno crede che il negozio non guadagni quando fa già un 50% di sconto. Quindi per Natale, prima di Natale, va a comprare solo il disperato che si è scordato non ha avuto un'idea di fare il regalo alla moglie e quindi è costretto a prendere un golfino di cashmere a 700 euro invece del 250 che costa 15 giorni dopo. Grazie a Fabio. Il punto di vista del consumatore che dice io trattengo perché questi già guadagnano, a questo punto aspetto i saldi. Allora tentiamo di vedere se si può aprire, ecco, una finestra di reciproca convenienza andando a osservare più da vicino un'esperienza, un esperimento che è stato fatto a Trento, e per questo si sono aggiunti in collegamento con noi, io li ringrazio anche a nome di voi ascoltatori, innanzitutto Alessandro Olivi, che è assessore all'industria, artigianato e commercio della provincia autonoma di Trento. Buongiorno assessore Olivi. Buongiorno. E si è aggiunto poi anche Paolo Martinello, che è il presidente di Altro Consumo. Ecco. Buongiorno. Buongiorno a voi. E quindi un'associazione di consumatori. Allora, assessore, qual è il bilancio da quando è iniziato l'esperimento della liberalizzazione delle vendite a Trento e a che cosa ha portato dal punto di vista vostro dell'amministrazione? È stato fatto con il consenso delle organizzazioni del commercio? Direi sostanzialmente di sì, anche se ogni riforma un po' coraggiosa ha bisogno, così, insomma, per l'appunto, anche di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non possiamo ancora dire probabilmente se questa misura, che è una sostanziale liberalizzazione con qualche regola di temperamento, ha funzionato in termini di duttilità e mobilità del sistema. Non lo possiamo dire perché noi abbiamo inserito questa norma nella legge finanziaria di quest'anno, quindi il primo esperimento è stata l'estate e sappiamo che non è lì sostanzialmente che si concentrano le maggiori aspettative dei consumatori. Comunque abbiamo costruito questo provvedimento, certo, insieme con la l'ascolto delle categorie e anche delle associazioni dei consumatori, la ratio sostanzialmente è quella di affidare alle categorie una maggiore autonomia, non di far dipendere questo dies a quo di volta in volta dalla contrattazione tra le parti e le istituzioni, che mi sembrava una cosa molto arcaica, che un anno il saldo inizia il 5 di gennaio, l'altro il 7 a seconda di chi decide di volta in volta. Insomma, mi è sembrato che affidare alla autoregolamentazione del sistema la possibilità di fissare le date di partenza di questi saldi, in ragione anche della differenziazione che ci possa essere da territorio a territorio, l'affluenza turistica piuttosto che le aree urbane, ci sembrava un segnale sostanzialmente di apertura e di maggiore flessibilità del sistema. È molto prudente, molto diplomatico, per così dire, mi pare di capire. Non c'è ancora un barlume di primo bilancio per poter dire meglio insistere, meglio fermarsi? No, guardi, quest'estate le cose hanno funzionato bene, addirittura ecco. io ho visto addirittura quest'estate che ci sono state delle realtà, io vi cito l'esempio, per esempio della città di Rovereto, che è la seconda città del Trentino, dove gli operatori si sono accordati nel far decorrere i saldi da una certa data liberamente, nel senso che non è stata la provincia a dire voi iniziate il 5 di luglio piuttosto che il 19, e in occasione della comune apertura dei saldi hanno organizzato anche alcuni eventi di intrattenimento e una promozione quindi del saldo legata alla, per cui io credo che l'inizio ha dato segnali positivi. Credo che bisognerà un po' attendere un anno, certo, solare, per capire se questa investimento che la politica ha fatto rispetto a che cosa alla fine ha una reale capacità di autogoverno del sistema da parte delle categorie. Certo, esatto. Che se poi le categorie dimostreranno che prevale la conflittualità, prevale la voglia di differenziarsi e di invocano di nuovo un dirigismo pubblico, sarà secondo me una sconfitta da questo punto di vista, perché affidare di volta in volta, ripeto, parlo della legislazione che era vigente in Trentino, la determinazione della data di inizio di saldi da una delibera della giunta provinciale così. Che ogni anno mutuava la data a seconda, diciamolo pure, insomma, no? di che cosa poi non si sa, di qualcosa di poco oggettivo, insomma, no? Ma di spinte anche un po' corporative, mi sembrava una cosa da togliere. È una delle poche volte in cui si liberalizza, vediamo se sono d'accordo con lei e sono fortemente a favore. Naturalmente l'esperienza delle lenzuolate di Bersani, degli anni che abbiamo alle spalle, ci insegna che queste scelte, nelle quali io chiedo molto, credo molto, devono essere governate il più possibile, tentando di non perdersi per strada i pezzi in questo caso della distribuzione, delle organizzazioni che la associano e la rappresentano, perché più ci li perdiamo per strada, più poi alla fine le liberalizzazioni non funzionano e si arenano, che spesso capitato negli anni alle nostre spalle. E la posizione di altro consumo, di un'associazione quindi di consumatori, Paolo Martinello, qual è su questo? Ma noi sulla liberalizzazione dei saldi siamo perfettamente d'accordo, la chiediamo da anni e siamo soprattutto favorevoli al fatto che vengano tolte di mezzo questi interventi pubblici sulle date di apertura e di chiusura. Quindi l'esperienza di Trento mi sembra che vada nella direzione giusta. Attenzione però, attenzione, sottolineo, non è che alla venir meno della regolamentazione pubblica si deve sostituire l'accordo tra i commercianti o tra le associazioni di imprese, perché se fosse così cadremo dalla padella nella brace. Cioè la liberalizzazione deve servire ad aumentare la concorrenza, non la conflittualità, la concorrenza tra gli operatori. Se ad una data fissata per legge, alla quale io sono contrarissimo, si sostituisce una data concordata tra tutti i commercianti di una città o di una provincia o di una regione, ritorniamo punto e da capo, con la differenza che oggi abbiamo una legge sbagliata che però è legge e che quindi in qualche modo va rispettata. Domani, se ci fosse un'intesa tra commercianti su quando praticare gli sconti, sarebbe una pratica anticoncorrenziale sulla quale probabilmente l'antitrust avrebbe molto da ridire. Quindi noi siamo favorevoli alla liberalizzazione perché ci deve essere più concorrenza, e proprio nel senso che dicevano quei due ascoltatori, uno consumatore e uno commerciante, l'effetto di una data di apertura dei saldi uguale e contemporanea per tutti i commercianti ha un effetto deprimente sui consumi perché, e sui prezzi, non nel senso che li abbassa, nel senso che nel periodo non di saldo c'è un effetto drogato, c'è un effetto di riduzione del consumo in attesa dell'apertura e addirittura magari di innalzamento dei prezzi che poi verranno scontati. Questo è un effetto distorsivo di queste pratiche che vanno assolutamente superato. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della spesa degli italiani ipotizzabile sotto Natale dopo mesi di insomma di andamenti non certo favorevoli. Come immaginavo c'è una reazione molto vasta, una forte reattività dei commercianti rispetto alla grande distribuzione che viene identificata come un problema, mentre invece per molti consumatori è una specie di approdo al prezzo più basso, ma che invece viene rappresentata e vissuta dalla gran parte della distribuzione di prossimità italiana come, ripeto, un grosso problema, si vede dalle mail che abbiamo ricevuto. Al professor Pamoli avevo chiesto ma cosa avverrebbe in realtà se una liberalizzazione su più vasta scala di queste date per le vendite più vantaggiose si estendesse nel nostro paese. Cerco di rispondere a questa sua domanda collegandomi anche con alcune considerazioni che sono state svolte prima. Ritengo che nell'immediato l'impatto in termini di andamento dei consumi sarebbe un impatto relativamente modesto, ma che sarebbe quello della liberalizzazione delle date dei saldi e l'eliminazione dei vincoli alle vendite sotto costo, alle vendite promozionali pre-saldi di fine anno, sarebbe un segnale importante che sarebbe destinato a concorrere a modificare in modo graduale, come lei diceva, perché questo accompagnamento è importante, una rappresentazione del ruolo e dei margini di operatività della stessa distribuzione di piccole dimensioni. Cerco di spiegarmi meglio. La riflessione che va condotta è una riflessione sui modelli di business sostenibili da parte di questi esercizi, perché un mondo di prezzi bassi e volumi bassi senza economie di scala dal punto di vista logistico e senza economie di scala da un punto di vista dello sfruttamento del fattore capitale, del fattore lavoro, è difficilmente concepibile. E allora se un paese di nicchie ed è un paese di nicchie di alta qualità o vuole esserlo nella produzione, anche questa mitizzazione del ruolo deprimente della grande distribuzione sulle produzioni nazionali è appunto una mitizzazione. Qui quello che si chiede alla piccola dimensione è una riflessione sul grado di capitalizzazione necessario e sul grado di differenziazione necessaria. Non dimentichiamoci che la distribuzione di prossimità in altri paesi esiste, anche di piccole dimensioni, ma opera in condizioni margini estremamente più bassi. Quindi qui credo che non si tratti tanto di voler dare un tratto di penna sul modello italiano di organizzazione della distribuzione, casomai si tratta di disegnare le complementarità in modo più accurato, perché è vero che la produzione in parte ha avuto un andamento dei prezzi che riflette anche la delocalizzazione, ma io prima mi riferivo al valore della produzione interna e mi riferivo al fatto che in Italia non esistono strutture alla Walmart o strutture alla Auchan, alla Carrefour, alla Leclerc, che di fatto hanno sostenuto la riduzione dei prezzi per un'ampia fascia della popolazione. Allora, questa differenziazione è frutto di dinamiche evolutive che mi pare siano ineluttabili, e questa ineluttabilità è bene che non venga ritardata da barriere all'entrata che salvano la barchetta per alcuni mesi, per alcune settimane. Non e lei dice poi non risolvono il problema. Non risolvono assolutamente un problema che è un problema strutturale. Ora, rispetto ad alcune tipologie del commercio di prossimità bisogna poi anche distinguere, perché ripeto, ciò che per alcuni, essendo rimanenza, diventa una perdita secca, proprio secca, non recuperabile, per altri non lo è, perché dipende dal tipo di prodotti, nel senso che per l'abbigliamento moda questo è molto più marcato per il piccolo venditore di quanto non avvenga per altri generi nella distribuzione e di quanto non avvenga invece in catene in franchising, in cui la rimanenza secca per il distributore che ha negozio in franchising non è equiparabile alla perdita secca manca di chi invece non fa parte di una catena in franchising. Sono tutte queste le cose che continuano, contribuiscono a spiegare perché molti di voi ci chiedono: ma io come faccio a immaginare che c'è davvero un'assenza di margine per il venditore, per l'esercente, quando io vedo differenze di prezzi in due settimane del 400%? Che è una domanda più che legittima. Per rispondere a questa domanda bisogna tenere anche presente le diverse rigidità che implicano un diverso tipo di esercizio commerciale. Guardate, a me non mi difende con commercio in questo momento, ma lo dico per tentare di capirci con voi che siete a casa. Ancora un paio di telefonate. Marco da Torino, prego. Sì, buongiorno. Ha detto parole sante, quelle ultime che ha citato. Io sono un imprenditore nel settore dell'abbigliamento e volevo appunto difendere la qualità del commercio che deve valorizzare il nostro paese, l'Italia. Trovo a discapito, purtroppo lo dico, delle grandi catene di distribuzione che la fanno da padrone e dettano le regole. Noi a livello provinciale, come commercianti anche, stiamo cercando di spostare l'inizio dei saldi almeno di un mese per posticiparlo e iniziare e fare veramente i saldi come dovrebbero essere fatti. Però non può essere fatto, come diceva l'assessore di Trento, localmente e libero. Deve essere regolamentato da qualcuno, perché oggi la gente si sposta per una città piuttosto che una. Se a 15 o 30 chilometri iniziano i saldi 20 giorni prima, è ovvio che la gente va dove cominciano prima. Ma se fosse regolamentato e tutti cominciassero i saldi anziché il 2 di gennaio, quindi 10 giorni dopo le feste, ai primi di febbraio e concentrati in 4 settimane di vero saldo, forse avrebbe comunque più senso. Invece le catene delle grandi distribuzioni hanno convenienza comunque ad iniziarli sempre prima, a discapito dei piccoli commercianti, che secondo me dovrebbero essere tutelati, perché secondo me ci sono dei negozi che hanno l'eccellenza e la qualità e rivestono una carica importante in Italia. Grazie, ecco. Grazie a Marco. Franco dalla provincia di Chieti, prego. Buongiorno, volevo aggiungere uno spunto di riflessione, secondo me molto importante. Io sono presidente della Confesercenti qua di una piccola città dell'Abruzzo, Vasto, nonché commerciante da oltre 30 anni. E se non si mette mano agli studi di settore... Ah, il fisco, giusto. Che non prendono in considerazione il monte incassi di un commerciante durante i saldi e le vendite promozionali, come si può pensare che poi questo commerciante durante l'anno pratichi gli sconti tutto l'anno? Franco, lei, io le do ragione, la devo interrompere, perché lei deve capire che nel darle ragione, e qui più volte io ho fatto campagna per la modifica degli studi di settore, e anche perché il governo su questo non ha mantenuto gli impegni, lei deve capire che naturalmente il lavoratore a reddito dipendente, quando sente questo, automaticamente dice: dillo a me che a me ne prendono la fonte. Quindi è una gara a chi sta peggio in questo paese dal punto di vista delle tasse. Una rapidissima, veramente istantanea reazione che volevo chiedere a Massimo Gallo. Ce l'abbiamo collegato Massimo Gallo? Non ce l'abbiamo collegato Massimo Gallo, perché era il presidente della Confesercenti di Trento, quindi volevo sapere la sua impressione su come era andata intanto la prima liberalizzazione. Torneremo sui problemi della distribuzione commerciale, perché moltissimi di voi hanno chiesto di intervenire dal punto di vista del consumatore e oramai oggi purtroppo non avevamo tempo. Intanto ringrazio la regia Camillo Lauricella, Alessandro Marco Tulli in redazione, la linea Generale Radio, l'appuntamento a domani. Grazie da Oscar Giannino. 9 in punto, la versione di Oscar. Yeah.